coincide questa giornata anche con il rientro in servizio. Come sempre, il nostro lunedì è dedicato all'incontro con l'autore, l'autore locale o un autore che si dedica al locale, ad argomenti per conoscere la nostra terra. Mi fa particolarmente piacere questa sera, ringrazio della loro presenza Don Paolo Renna e il professor Dobrilla, che ci aiuteranno in un altro percorso alla conoscenza di noi stessi, del nostro rapporto col territorio, e tante domande ci potranno trovare risposta anche in questa bellissima autobiografia del nostro Paolo Renna. Devo dire che questi giorni non sono stati molto felici, ecco. Abbiamo preparato anche in occasione dell'arrivo di tante persone una bibliografia, non solo per far vedere quello che è stato scritto precedentemente, ma anche alla luce di questi episodi, e soprattutto faccio riferimento a sabato, quindi le frontiere che lei cita, ecco, non solo quelle della vita, dei rapporti con gli altri, di tante persone, tanti casi della vita, ma anche le frontiere di questo territorio, sono spesso molto tangibili, molto visibili, e quella di sabato è stata una ferita più che una frontiera, per tanti, per tutti, insomma, dall'una all'altra parte, insomma. E credo che mai come oggi sia importante leggere, conoscere, approfondire, scoprire, rivedere i percorsi, insomma, la storia anche di questo territorio, per avere un rapporto più sereno con gli altri, perché, ripeto, per me è stata una ferita quella di sabato. Ecco. Io ringrazio i nostri relatori e vi auguro una piacevole serata, e ripartiamo con un po' più di energia e di entusiasmo, voilà. Ecco, non facciamoci turbare da tutte queste cose. Volevo solo cogliere l'occasione, perché di solito faccio sempre uno spot pubblicitario, ecco, delle iniziative prossime. Allora, lunedì prossimo molti di voi avranno già ricevuto l'invito sulla presentazione del libro I Cantieri dell'Energia, e poi il 24 novembre invece sarà la volta del libro del dottor Frangipane, che è qui presente, e quindi sarà un altro appuntamento che avremo con lui, un'amicizia consolidata, e spero altrettanto con voi. Ecco, vi ringrazio e buona serata intanto. Allora, il Don Renner mi ha chiesto di stuzzicarlo questa sera e io ho accettato volentieri questo invito per una serie di motivi che mi sono annotato, perché essendo vecchio se no li dimentico. La prima è una conoscenza diretta di Don Renner, che è frutto della collaborazione che abbiamo avuto nel fare quei due libri che vedete lì, di cui facciamo volentieri promozione, perché i diritti vanno tutti all'infanzia abbandonata, quelli da adottare, quelli senza casa, sia nel Medio Oriente sia nel Brasile per quanto riguarda Don Renner, e quindi questa conoscenza è stata un elemento solido di un qualche cosa che poi è diventato anche un'amicizia. Il secondo motivo, perché questo libro che io ho letto con grande entusiasmo e con grande interesse e anche inquietudine, è un libro che, a mio avviso, a prescindere dall'amicizia, merita assolutamente di essere letto e soprattutto meditato. In questo troverete anche degli spunti che fanno un po' il paio con quanto diceva la nostra presentatrice. Il terzo motivo è un sottile sadismo, perché spero di metterlo in difficoltà con qualche domanda, e mettere in difficoltà Don Renner è da sempre un sottile piacere. Poi c'è una certa comunanza, il quarto motivo, una certa comunanza di fatti adolescenziali. Lui sottolinea nel libro, a pagina 41, che ha fatto il cameriere, la raccolta di mele e delle traduzioni. Io nella mia vita di adolescente ho fatto il barista, il pasticcere e il correttore delle schedine di Totocalcio, che allora si chiamavano Sisal, e per guadagnare 1.000 lire a settimana io facevo il controllo dei risultati che venivano fatti a mano senza computer. Quindi, Pasticcere o pasticcione, no, scusa. pasticcere. Voi capite che questo già stimola l'attrito. La promessa poi, questo è un ricatto, io ho accettato perché lui farà le stesse cose con me, quindi sarà maligno come sarò io stasera, quando uscirà il mio libro, di cui non faccio promozione perché i diritti non vanno a nessuno, ma insomma sarà un libro che riguarda la medicina seria e la medicina fasulla, e che Don Renner mi ha promesso di presentare. Prima di dargli direttamente la parola e fargli commentare cose, vi dicevo questo: lui ha presentato questo libro, che già il titolo è molto stimolante, Frontiere, abbiamo tutti delle frontiere nella nostra vita, il bene e il male, la virtù, il peccato, mille cose, siamo sempre a un bivio del fare o del non fare, quindi già il titolo era stuzzicante. Lui ci ha messo anche una fotografia in cui appare molto bello, e questo si picca di farlo sempre. Lui ha presentato questo libro in una platea molto composita, giovanissimi, più anziani, bianchi e neri, abbronzati, non so se dovrei dire abbronzati a questo punto, ma c'era neri, ed erano tutti laici e anche religiosi, e sono stati tutti molto entusiasti. Ma io sono stato colpito da una cosa, dal fatto che in quella sera Don Renner, è una virtù che apprezzo in qualsiasi persona, è rimasto assolutamente se stesso, ha parlato come se stessimo mangiando una pizza, e quindi risultava tutto tremendamente spontaneo. Andato a casa, me lo sono riletto quasi tutto, e il giorno dopo ho scritto una lettera al Corriere dicendo i miei pensieri su di Renner. Credevo di fare una lettera al Corriere e basta, lui me l'ha pubblicata, dando uno spazio inconsueto per una lettera all'editore, e l'inizio di questa serata vorrei leggervi quello che ho scritto a caldo, senza meditare poi sul libro, proprio le impressioni che il libro e la sua presentazione mi ha suscitato. Questa non vuole essere la recensione di un libro, ma di una serata in cui l'autore Don Renner ha presentato il suo Frontiere Grenzen, vita freelance di un prete felice, altra cosa molto interessante. Siamo sempre avvolti da gente che si lamenta di qualcosa. Lui, oltre ad essere un prete, è anche felice. Suo doppiamente, perché è lui l'autore e perché nel libro egli parla della sua vita. Commentare la serata e non il volume consente non solo di toccare tematiche e spunti in questo contenuti, ma anche di tentare un profilo umano di chi l'ha scritto. Un profilo interessante da vari punti di vista. C'è intanto in Don Renner la capacità di dire cose serie, non prendendosi, apparentemente in parentesi, troppo sul serio, e di suscitare riflessioni su temi importanti usando leggerezza di linguaggio e immediatezza di immagini. Non sembrerebbe neanche un prete, qualcuno potrebbe scioccamente dire, ma una croce a lui molto cara puntata sulla giacca è innegabile prova che lui prete lo è, e come. Croce a parte, più volte durante la presentazione le si dichiara orgogliosa di esserlo e di non avere rimpianti su questa scelta, affiorata prepotentemente e quasi improvvisamente, quasi in parentesi, nell'adolescenza. Ma come sta scritto in copertina, egli si definisce un prete freelance, è felice, anzi felice perché è freelance. Ciò gli consente di sentirsi tra la gente e non diverso dalla gente, di essere fermi in alcune verità, ma sempre capace di distinguere la facciata del palazzo da ciò che sta all'interno, di discriminare tra la sostanza e la forma. Uno dei concetti affioranti sotto diverse spoglie nel libro, ma soprattutto rimarcati nella serata di presentazione, è quello relativo a cosa significa essere un buon cristiano. Chi è vero cristiano? Soltanto colui che esibisce la sua fede, frequenta molto le chiese, rispetta parole e le tavole della legge, ma che nella vita disattende concretamente il messaggio evangelico? O non è cristiano pure l'agnostico o di altra confessione che vive, fra virgolette, come Dio comanda? E poi, perché la fede deve essere contrassegnata invariabilmente da seriosità, a prescindere, fra virgolette, anche quando non necessaria, o solo da proibizioni, da incapacità di godere delle bellezze naturali che proprio per chi crede dovrebbero rappresentare la firma del Signore, l'espressione dei suoi doni? Se la storia del figliol prodigo ha il significato che ha, perché i diversi di ogni genere devono essere emarginati e non incontrati? Accettare o cercare incontro e confronto e persino lo scontro non significa abdicare i propri convincimenti, dice ad un certo punto il teologo, ma rafforzarli, ipotizzando persino la disponibilità a ricredersi su questioni che non, scritto in eretto, sono un inderogabile e diretto messaggio di Dio, perché spesso, aggiungo a voce, il messaggio di Dio viene riferito come messaggio di Dio, in realtà Dio non l'ha mai detto, ma solo posizioni di uomini della Chiesa, pertanto non necessariamente immutabili. La serata continua davanti a un folto pubblico di probabili simpatizzanti, ma certamente eterogeneo, come dicevo, per età, sesso e razza, paese d'origine, posizioni politiche, fede religiosa. Tuttavia, la spontaneità e anche l'abilità di Don Renner di far riflettere divertendo aneddoti, storielle semiserie, ricordi personali ricchi di humor, fungono da omogenizzatore, e si percepisce mentre gli parla che la gente intorno è quella che dovrebbe essere sempre, un insieme di persone con storie differenti ma facenti parte di un'unica comunità, tollerante e curiosa di ciò che sono gli altri e di ciò che gli altri pensano. Qualcuno gli chiede dei suoi primi passi in quella serata e lui risponde che i suoi genitori sono stati la base del suo crescere e che la famiglia è una ricchezza inestimabile per tutti. Ma la famiglia deve essere vera, fra virgolette, nella sostanza, quella dove regna affetto, rispetto, schiettezza, confidenza, assenza di prevaricazione. Non basta insomma partecipare al Family Day e a farsi riprendere dalle camere durante la manifestazione per diventare paladini della famiglia. Chi scrive non può dimenticare riguardo che qualche politico entusiasta del Family Day, ma con amanti in stato interessanti, inevitabilmente rottura del matrimonio dopo questa notizia, o qualche altro fervido difensore della sacralità del matrimonio, pescati in albergo a 5 stelle in un ménage à trois, eccetera eccetera. Attenti insomma, che le pubbliche virtù non celino vizi privati, negli altri ma anche in noi stessi. Per controllare se la mia lettura della serata di presentazione è accettabilmente corretta, non resta che comprare il libro, auspicio che faccio anche adesso, i diritti vanno in beneficenza, e soprattutto leggerlo per imparare a essere un po' freelance anche noi, analizzando le frontiere Grenzen che noi stessi abbiamo incontrato nella nostra vita. Aiuterebbe probabilmente anche noi ad essere, che non siamo preti, più felici. L'ho voluto leggere perché... perché vi giuro che l'ho buttato giù in stesura diretta senza pensare. Proprio sono le emozioni che Don Renner mi ha dato. Però il prossimo libro l'hai scritto dopo aver pensato. Il mio libro sì. Allora, veniamo invece a Don Renner. Gli chiediamo prima di tutto, perché mi pare una cosa importante, qual è stato l'obiettivo di questo libro? È stato un diario sentimentale, un tuo sfogo in quel poco tempo che ti resta dalle varie cose che fai? L'uomo invisibile, se facessero un film L'uomo invisibile, lui sarebbe l'attore, non c'è mai da nessuna parte. Ma in quel poco tempo che resta, lui ha fatto sto libro. È un diario, un'esigenza sentimentale, o volevi lanciare un messaggio agli altri? Tanto è la risposta alla provocazione di un amico, tale famigerato Paolo Ghezzi, che faceva a quel tempo il direttore dell'Adige a Trento, che vedendomi più spesso a Trento che a Bolzano, mi chiedeva: senti, ma mi racconti un po' i tuoi retroscena, quello che fai anche a Bolzano, le esperienze, tu che sei bietnico e così via. Allora mi ha lanciato un po' questo sasso, io l'ho ben volentieri raccolto perché mi piacciono le cose un po' strane, e siccome poi della gente spesso si scrivono delle biografie dopo morti, no? Dicendo delle cose che poi nessuno può smentire. Allora ho detto: meglio che provvediamo a una specie di biografia provvisoria, però che sia autorizzata. Allora me la scrivo io. Perché se la faccio scrivere un altro, chissà che cosa racconta, è meglio stare attenti. Se avesse scritto lui la mia biografia, avrebbe esagerato nel bene e nel male. Avrei venduto un sacco di libri, però. Sì, con un sacco di bugie. E quindi ho detto: proviamo questo esperimento di fare un Zwischenbilanz, no? Un bilancio intermedio, arrivati alla venerabile età di 50 anni, è giusto dire siamo ormai oltre la boa della metà di strada, no? Statisticamente parlando, e allora ho voluto un po' ragionare ad alta voce, no? Pensare ad alta voce, condividere alcune riflessioni. Ho detto: ci sono persone pseudo blasonate che hanno scritto già ai primi 40 anni, no? Io ho aspettato altri 10 per poter maturare un pochettino certe idee. Ho detto anche la mia vita per circa metà, perché da 23 anni che sono prete, è segnata dall'essere e fare il prete, e quindi anche questo deve essere portato un pochettino all'attenzione, va detto, va sottolineato ogni tanto. E penso che sia bene anche dire che si può essere prete e felice, no? Questo è uno degli scopi molto chiari. Lui non l'ha ancora capito, ma è un libro di propaganda vocazionale, no? Una volta si facevano le novene per le vocazioni, così. E adesso ho scritto questo libretto per trasmettere un po' l'idea che essere prete sia una cosa anche simpatica e che non significhi soprattutto astrarsi dal mondo, anzi, essere prete significa immergersi nel mondo. Perché i sacerdoti, io ho scritto un articolino anni fa su questo, il direttore del Corriere dell'Alto Adige, molto ringraziato, i sacerdoti sono i ministri di culto delle antiche religioni, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, che hanno sempre un po' di distacco dal mondo, perché vivono in posti particolari, portano vesti particolari, eccetera, no? Sono una casta. Gesù non sopportava molto i sacerdoti, e per questo ha inventato i preti, che sono un'altra cosa. Cioè, ha detto ai suoi discepoli: oh, chiappate l'uno all'altro e fatevi fare il presbitero, cioè l'anziano, il responsabile della comunità. Dice: possiamo chiamarlo sacerdote? No, Gesù non ha detto chiamateli sacerdoti, no? chiamateli presbiteri, anziani, cioè diaconi, servitori, responsabili della comunità, presidenti della liturgia, dategli un nome tecnico, non chiamateli sacerdoti, sennò diventano una casta. Va bene, ha detto San Pietro, va bene, ha detto gli altri apostoli, così. E che hanno fatto? Hanno stabilito presbiteri in tutte le comunità, se non che una volta morto Gesù, si trasferiscono, vanno a Roma, così via, dice, come vi chiamate? Presbiteri. Ah, che cosa sono i presbiteri? Ma una specie di sacerdoti. Ah beh, sì, allora siete sacerdoti, no, siamo presbiteri. Cioè, col passare degli anni, dice, ma perché non ci chiamiamo sacerdoti anche noi? No? Hanno cominciato a prendersi una veste sacerdotale, una dimora sacerdotale, lo spazio del presbiterio tutto per loro, eccetera, eccetera, e sono ritornati un po' una casta come era ai tempi prima di Gesù. Noi dobbiamo essere preti, cioè incarnati nel mondo, gente presa dalle comunità che svolge questo compito senza però mai essere al di fuori o al di sopra delle comunità. Quindi un racconto di come vive oggi un prete nella postmodernità, dove la gente è molto cambiata e deve cambiare anche il modo di essere prete tra la gente, e dove non ci sono più le grandi masse. Dice, perché le chiese sono vuote la domenica? Sono tutti a Piazza San Pietro? Sono tutti là, se faccio il Papa c'è 300.000, per forza da me ne vengono di meno, no? Una concorrenza non troppo lecita, perché insomma un po' forzata la audience in quei casi. Allora cambia il modo di essere prete e bisogna raccontare un prete di oggi. Ci sono delle cose molto più serie su questo tema, no? Georges Bernanos, il diario del curato di campagna, una cosa molto più cervellotica, più seria. Il mio è così un racconto di quello che sto sperimentando nella mia vita, e soprattutto anche un inno di gratitudine al buon Dio, alla famiglia, come già rimarcato Giorgio Dobrila, ma anche a tante persone che ho incontrato, perché mi sto accorgendo che noi crediamo di dare molto, in realtà è più quello che riceviamo di quello che diamo. Tante persone ricamano nella nostra esistenza, aggiungono un punto, mettono un colore, danno una nota particolare, un timbro, un accento. E questo è importante, dire che ognuno di noi è un Sammelwerk, no? Anche Mindschaftswerk, ciascuno di noi è costruito da un lavoro comunitario, no? E quello che è il compito dei preti, costruire comunità, cerco di raccontare il libro come si possa fare comunità anche con persone strane, tipo dei medici un po' miscredenti, così mi sono ben portato l'acqua santa, dico, se diventasse aggressivo nel corso della presentazione, c'ho la mia difesa, no? La ce l'ho in tasca, perché ieri sera ero un cineforum sul demonio a parlare di esorcismi e cose varie, quindi scusazio, non petite accusazio manifeste. Comunque devo dire che effettivamente lui tante volte mi ha augurato di essere felice senza mai invitarmi a diventare prete, quindi questo dimostra che uno può essere felice, uno può essere felice anche senza essere prete. Io ho conosciuto tanti preti infelici proprio perché non hanno avuto la capacità di guardarsi dentro come Don Paolo ha fatto, o perché in questa fase potremmo dire perché non sono diventati vescovi. Ah, e beh, qualcuno sì. Ti ricordi Via Colvente in Vaticano? No, era uscito 5 anni fa, un libretto scandalistico su tutte le trame, le porcherie del Vaticano, no? E scritto da un monsignore frustrato per non essere diventato vescovo, ha buttato i tolitri di liquame sul Vaticano, è uscito questo libro, ha fatto scalpore, oh, questo qui 6 mesi dopo è morto, eh? Oh, cioè, parlare troppo male del Vaticano, deve avere una spruzzata con quella fare lì. Vabbè, il Vaticano. Date le premesse, intanto una cosa che forse interessa a chi è qui anche con noi: che accoglienza ha avuto il tuo libro? Così nel complesso, nella comunità, laici, non laici, religiosi, ambienti ecclesiastici. Questo è interessante. Dagli ecclesiastici ho avuto voci in genere positive, e questo è molto strano, perché di solito i preti degli altri preti parlano male, no? Questo è un po' uno sport nazionale o uno sport di nicchia, diciamo. Però ho avuto dei preti, cito uno che forse conoscete, non Pietro Giacomelli, perché ha lavorato molto a Bolzano, così, che mi ha scritto una lettera entusiastica di 2 facciate, già mi dice, ti conosco da anni, ma questo libro mi ha dato modo di conoscere di più, di vedere un po' quello che c'è dietro le quinte, dietro il sorriso, quello che è poi il lavoro, l'impegno. L'editore a Trento è contento, perché l'ho incontrato settimana scorsa a Trento, mi fa, le vendite vanno benissimo, sai, dico, quello è un aspetto, ma non è il principale. E ho avuto reazioni da gente vicina, da gente lontana. Mi sono scritto giù alcune delle reazioni che mi sono arrivate via sms o tramite mail, ne ho 5 pagine, però vi direi, non so, la 3 e la 5 la 3 e la 5 la 3, un seminarista, che mi dice: sei un grande, è bellissimo leggere la tua biografia, soprattutto ora che ti conosco. Sono arrivato alla tua ordinazione, hai tanto da insegnare. La 5 invece è un padre carmelitano qui, che dice: mi sto gustando le tue frontiere in treno verso Roma. Grazie per ieri, era anche lui la presentazione, padre Giorgio, così. E poi ci sono quelle un po' buffe, tipo il nostro sindaco Gigi Spagnoli, è stato uno dei primi a rispondere perché gli ho regalato il libro. Sapete, i politici non pagano mai la roba, quindi è meglio regalargliela, si fa più bella figura. E allora mi ha risposto con un messaggino: ed arrivasti a passare la frontiera in un bel giorno di primavera, e mentre marciavi con l'anima in spalle, puntini sospensivi, liberamente tratto da Fabrizio De André, La guerra di Piero, versi che ben potrebbero riferirsi anche alla pace di Paolo, come parlano gli spagnoli. E un'amica docente universitaria a Trento, fine del libro, un po' gasato, eppure è tutto così normale, letture, lavoro, il problema? Forse perché gli altri non sono così? Ok, 7 più, ma puoi fare di meglio. Quindi, non so, un'altra pagina. Sì. E leggo una di una mamma tirolese con due figli avuti da un tunisino, e è venuta lei con i bambini alla presentazione a Bressanone, e dice: gratuliere zum Buch, die Vorstellung war sehr lebhaft und interessant, bin schon am Lesen. E poi dice: non si è rimasti fino alla fine perché il bambino più piccolo, che ha 10 anni, non deve andare a letto troppo tardi. Ma poi dopo ha reclamato quando stavamo a casa e dice: wir so schon heim, das ist so fein gewesen, und wenn ich schon einmal beim Professor Renner sein kann, muss ich gleich heim. Ma dice: una volta che potevo essere professor Renner devo andare già a casa, così via. E appena ha toccato il letto già si è messo a dormire, e il fratello maggiore Karim dice sempre: ah, De Alvio da Impresto, quello diventa prete di sicuro, così via, no? Poi c'è uno che mi ringrazia, dice: mi è scesa una lacrimuccia perché ho ricordato suo papà, e una cosa particolare di suo papà, che quando seppe, dunque festeggiamo in autunno il 60° di matrimonio di questa coppia della zona di Salorno, e poi nella primavera successiva lui seppe di avere un tumore che l'avrebbe condotto presto alla fine, e volle da giugno a tutto agosto chiamare gli amici per accomiatarsi, no? E mi fece telefonare ai figli dicendo se andavo a mangiare il tortello di patate con loro a Faedo, no? Allora, questo tortello fu il suo rito di commiato, no? Quindi vuole dire: sai, sto salutando un po' tutti, tu sei sempre stato vicino alla mia famiglia, sono contento, no? E anche nel libro ricordo che poi questo Alberto e chiese ai figli, quando era ormai al lumicino, di prendere su dalla cantina quella bottiglia di vino buono che aveva conservato per le grandi occasioni. Uno dei figli scende, vede la bottiglia di vino buono, però dice: peccato, viene su con quella un po' meno buona. Ma papà lo vede e dice: no, asino, quell'altro là. Torna giù, prende la bottiglia, la fa sturare, fa versare a tutti, e poi dice: vi voglio dire grazie perché mi avete sempre voluto un gran bene, e anche adesso che sono alla fine mi avete seguito con tanto amore, ringrazio il cielo che ho avuto questa famiglia. Io cito questo episodio, allora lui mi scrive: ricordi anche papà, ti voleva bene, sono felice che hai ricordato il suo tortello e il suo vino. Quindi c'è dentro non solo grandi filosofi. Qualcuno mi ha rinfacciato, dice: sembra che conosci mezzo mondo. Mezzo no, ma un quarto sì, perché girando, dice: chiami tutti amico, il ministro tale, il professor tale, la star tale. Ma io tutti quelli con cui ho un rapporto schietto, ho il telefonino, ci sentiamo ogni tanto, li chiamo e li tengo amici, poi dopo si può distinguere, sono conoscenti di serie A, di serie B e così via. Dalla Val di Non mi arriva una precisazione, Enrico. Una richiesta di fondi, immagino. No, non una richiesta di fondi, una richiesta di fondo. Perché nel libro cito, tra le altre amenità, quella battuta dei genovesi, no, degli scozzesi, che quando la fatina gli dice: chiedi quello che vuoi, ma al tuo vicino darò il doppio, allora lo scozzese ci pensa a lungo e dice: allora cavemi un occhio, no? Allora questo nonno mi puntualizza da Sarnonico, puntualizza, dice: gli scozzesi saranno avari, ma sono nonesi quelli perversi con i loro simili, tanto da farsi cavare un occhio per poter accecare il loro vicino di casa. Puntualizza. Bello il libro, complimenti. Puntualizza queste cose. E poi ci sono tante altre cosettine di vario genere. E quello, tante persone che l'hanno letto in vacanza durante un po' da tutte le parti, da Cauria a Creta, dall'America a tante altre parti, e una critica più negativa è stata quella di chi mi diceva appunto che ero un po' gasato nel testo, ma d'altronde dico io, viviamo in un mondo dove i depressi spuntano fuori da ogni dove, i complessi di inferiorità si tagliano con il coltello, se c'è uno che dice sto bene, sono contento, insomma, proviamo a dire anche noi, in fondo potrebbe andarmi peggio, no? Allora questa amica che mi ha fatto una recensione su Cenacolando, che è la rivista della comunità del Cenacolo di Merano di cui sono responsabile, questa amica scrive a un certo punto che non ha trovato, dice nel libro ti ho ritrovato così come ti conosco, per come ti manifesti e così via, no? Anche una certa fanciullesca innocenza, meno male. Ma mi dice, ne risulta, manca il riferimento al momento del dubbio, dell'incertezza, della solitudine, dell'ansietà, del limite, dimensioni che appartengono, credo, all'esperienza di ogni uomo. Possibile che tutto ti sia andato sempre così liscio, senza intoppi, eccetera, eccetera, eccetera, che tu abbia sempre saputo con tanta chiarezza cosa fare, cosa dire, dove andare. Eh no, la chiarezza viene dopo. Ma d'altronde, possiamo responsabilmente dare in mano oggi alla gente un libro angoscioso? Per quello c'è già la TV, c'è già il giornale, uno che vuole star male guarda la TV, legge il giornale e avrà da star male. Io ho voluto fare un libro dove cerco di far vedere il lato migliore della vita e così via, no? E questa amica mi diceva anche, se il libro naufragasse nell'oblio e soltanto due frasi potessero essere salvate, salverei queste due. Leggere libri ti insegna a scrivere la tua propria vita. Quindi una bella pensata che ho avuto, no? Leggendo i libri trovi te stesso e vivi te stesso e puoi scrivere il tuo libro, no? Poi ancora, pagina 131, la malattia ci invita a superare la frontiera delle convenzioni, del finto perbenismo, per dedicarci alle persone che sono infinitamente preziose, anche per il fatto che oggi ci sono, ma non esisteranno per sempre. Quindi anche parlando della frontiera della malattia e della morte, si parla anche un po' di crisi e così via. Siamo a posto, mi pare che ha risposto bene. Grazie. Alle cose. No, perché è un esame continuo con lui. Ha risposto un esame bene. Durissimo, accuratissimo. E direi poi che non sono d'accordo con la signora, però, quella che ti ha criticato, perché glissavi su aspetti di solitudine, tristezza, eccetera. Mi pare che far riflettere sia comunque far riflettere anche su queste cose qua. Vabbè, una cosa che si coglie nel libro in varie parti, la tua fede è indubbia, la tua felicità di essere prete è altrettanto esplicitata, oltre che indubbia esplicitata, qualche motivo di divergenza, qualche motivo di attrito con la Chiesa, che non è la religione, e affiora. Allora la domanda è, perché affiora e in che cosa affiora qualche volta questi motivi di attrito? Che tu, che trapelano ogni tanto in qualche pagina, poi faremo riferimento a qualche pagina singola. Sicuramente quando qualcuno cerca di far credere che la Chiesa sia il regno di Dio e che quindi ascoltare la Chiesa o ascoltare Gesù sia la stessa cosa, a me sale la pressione, perché non è vero. A me si abbassa, stessa reazione però. Uguale contrario, io ce l'ho già alta, però quella è la fregatura. Cioè la Chiesa porta avanti il messaggio di Gesù, cerca di diffondere il Vangelo, cerca di metterlo in pratica con alterni risultati, alterni successi, però non si può identificare tout court le due realtà. Io ad esempio venero moltissimo il Papa, guardate, porto sempre l'immagine del Papa con me, Giovanni XXIII. Non del Papa, di un Papa. Vabbè, dopo ne è venuti altri. Anche Paolo VI ce l'ho nel breviario, no? Papa Wojtyła era simpatico, nonostante fosse polacco, ma questa l'ho portata perché ci ho detto una reazione interessante, mi ha scritto che ha ricevuto il libro, ha letto Monsignor Capovilla Loris, già segretario di Giovanni XXIII, che ringrazia cordialmente e invia anche un obolo per l'infanzia di Camassari, quindi è stato contento e ha mandato anche un'offerta per i bambini. Io ho l'impressione, ad esempio, che nella Chiesa ci sia un culto esagerato per la figura del Papa, che ci sia a volte anche in questa fase ratzingeriana un ritorno al passato, che può fare piacere ad alcune persone anziane, ma non a tutte. l'altro ieri sono saltato sulla sedia leggendo che il nuovo cerimoniere pontificio, Monsignor Giulio Marini, poi non ha una bella faccia, non è colpa sua, però non ha neanche delle belle idee. Ha detto che bisogna ritornare alla comunione sulla lingua, perché questa è la forma antica della Chiesa, e la comunione sulla mano deve essere un'eccezione. È una sciocchezza, è una porcheria. Una sciocchezza perché non è vero, in quanto la forma più antica è quella del prendete, mangiate tutti, spezzate e ricevere sulla mano. La comunione sulla bocca viene dopo il Concilio di Trento, siamo nel 1565, dopo, è una cosa degli ultimi 4 secoli e mezzo, che per i 2000 anni di storia della Chiesa è un nulla. Quindi la forma tradizionale è quella sulla mano. E poi la sciocchezza perché c'è fior di documenti papali che permettono entrambe le forme a discrezione del fedele. Quindi che adesso un oscuro cerimoniere si permetta di prendere decisioni, di propagare nel mondo senza venire smentito e rampognato, è una cosa che a noi teologi dà fastidio, perché quello di queste cose non ne capisce nulla. Non che noi teologi capiamo tutto. Poi dopo leggo giorni fa il documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica che vorrebbe impedire a tutte le persone di orientamento omosessuale l'ingresso nei seminari per diventare prete. È un altro obbrobrio, perché significa una discriminazione bella e buona. In seminario si deve discernere se una persona ha il sufficiente fondato equilibrio all round, quindi affettivo, sessuale, psicologico, gastronomico e così via, per poter fare il prete. È inutile che uno, ad esempio, sia sessualmente casto e poi mangia un frigorifero di roba al giorno e 3 volte non abbondi. Insomma, questo è anche uno squilibrio che bisogna evitare, no? Oppure che uno sia tutto libri e niente pastorale, o che uno sia solo con gli anziani e mai con i giovani. Bisogna garantire, verificare che sia una personalità capace di relazionarsi, perché questo è il lavoro del prete, costruire comunità. Questo documento è omofobo e discriminante. Queste cose qui io non le posso tollerare e dico stanno sbagliando. Poi cosa succede? Se li critichi, ti contestano, ti emarginano, non ti fanno vescovo. Pensate, in questi giorni sento questi mesi. Io ho corso il rischio di presentare un vescovo. Sì, sì. No, non sai questo pericolo. Molte persone mi dicono perché non fai tu il vescovo? Dico perché qua in zona mi accettano abbastanza. Lungo le rive del Tevere gli sto un po' qua, perché dico che le porcherie sono porcherie anche se sono fatte da Roma. E io credo che ci voglia questa onestà intellettuale, di dire questo non sbaglio. Ieri sera parlavo con quelli dell'Unione Alti Agnostici Razionalisti di Bolzano, dicevano la Chiesa ha fatto un sacco di porcherie, sì, ma non solo quelle. La Chiesa ha bruciato le streghe, ma non era solo lei. Ci vuole un'onestà di fondo nel riconoscere fatti e fattacci, fatti e misfatti, se no non si va avanti se non c'è questa onestà. Quindi ecco, c'è la Chiesa va vista nella giusta luce. Sei coerente e ti leggo, perché c'entra con quello che tu hai detto adesso, chi vorrà comprare il libro, auspico che venga venduto questo libro, compratelo. La percentuale. Dice, o la percentuale ovviamente, a pagina 71 Don Paolo scrive questo a proposito di un incontro che ha avuto con Gargitter. Ricordo ancora, dice, l'impressione che mi fece la figura, perché dice proprio le stesse cose che ha detto adesso, quindi vuol dire che è una cosa coerente dentro di lui e non è una cosa inventata al momento, Gargitter, il quale ci spiegò in maniera convincente che da quel giorno saremmo stati paladini di Cristo e avremmo dovuto difenderlo con tutte le nostre forze. Allora la domanda che mi ero preparato, che mi hai bruciato sempre, perché è paladini di Cristo non è sempre paladini della Chiesa. Perché questa è la frase, questo è il significato di questa frase. E sicuramente non legionari di Cristo, che è un ordine religioso piuttosto di destra, che cerca di farsi largo anche qui da noi e che ha degli intenti non tanto della propagazione del regno di Cristo, ma della propagazione di certe idee clericali, rigoriste e così via. No? E questa omelia Gargitter ce la tenne nel lontano 1964, me la ricordo ancora, la cresima. No? La cresima, avevamo 8 anni e mezzo, allora si faceva molto veloce questi sacramenti, no? Comunione, confessione, comunione, cresima, velocemente, me lo ricordo ancora che predicava Maria Assunta di oggi siete paladini di Cristo e dovete combattere per lui. Era interessante questa priorità che lui ha messo. Mi pare doveroso a questo punto dire, sempre perché trapela un senso di profondo cristianesimo in queste parole, il quadretto che ci fa Don Paolo a pagina 53 e racconta di un aneddoto riferito a Shimon Peres. in un foro mondiale di economia, un rabbino, dice virgolettato, chiese ai suoi discepoli: quando arriva l'aurora? Li risposero con vari esempi: quando si riesce a distinguere un cane da un lupo, quando si riconosce un ulivo rispetto ad un fico. No, rispose il rabbi, quando non distingo più il mio nemico e lo confondo con mio fratello e smetto di fargli la guerra, a quel punto la notte finisce e comincia il giorno. A me sembra che questo sia un pezzo fantastico, lo deve aver rubato da qualche parte, perché non è possibile che sia farina del suo sacco. Paolo Coelho. Quindi questo veramente è un concetto, secondo me, che come si fa a non sottoscriverlo a qualsiasi razza apparteniamo, a qualsiasi confessione apparteniamo, perché se no stiamo sempre con noi stessi. Per non avere divergenze con l'altrui dovremmo guardarci nello specchio e dire: che bello che sono, che bravo che sono. Apprezzo, questo è un pezzo veramente che mi ha toccato del Paolo, del Don Paolo. Ti avevo fatto un punto circa gli omosessuali, circa la questione omosessuali, e mi pare che tu hai già risposto, quindi saltiamo, perché è in quel contesto che ho visto. Giustamente, uno prima che sia verificato ha tutti i 7 vizi capitali, però è eterosessuale, è adatto per fare il prete. No, non è adatto per fare il prete, quindi un discorso veramente omofobico inaccettabile anche per me. Poi dici, a pagina 114, e citi il pensiero di Giovanni Paolo II, e vi dico cosa dice a pagina 114, perché mi sembra degno di essere commentato dal Paolo. Studiato seriamente, manco lo dovessi interrogare io, una cosa. Allora, meticolosa. A pagina 114 dice: condivido perciò profondamente quanto scrisse Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides et Ratio, ove illustrava il mutuo benefico rapporto tra fede e ragione, ricordando che per il santo citato è la fede che dischiude nuovi orizzonti al sapere. Dice lui: certo, una fede bigotta, oscurantista, fondamentalista rischia di farci mettere i paraocchi, di restringere la nostra visuale e di inibire il nostro agire nel sociale e nel politico. La fede autentica, invece, allarga gli scenari, spinge più avanti i paletti del tempo e dello spazio, incoraggia ad agire senza timore, purché si sia in sintonia con il principio assoluto che è Dio. Anche questo è un discorso fondamentale e che testimonia quanto sia vicino anche al pensiero di quel pontefice, e non necessariamente tutti i pontefici ci devono piacere. Ci sono dei pontefici, c'è un pontefice che ha partorito anche la Lucrezia Borgia, che è stata una delle più grandi avvelenatrici del mondo, non credo che potremmo essere entusiasti di quel papa lì. Quindi fare dei distinguo non significa essere cattivi cristiani, significa essere dei cristiani coscienti, insomma, mi pare, no? Diciamo che il trend è andato migliorando, però sempre in modo oscillante. Oscillante, ondulatorio. Trovo qui scritto che un pezzo importante della Weltanschauung renneriana è quello che sta a pagina 115, che adesso vi leggo. Personalmente, dice Don Renner, la verità che vorrei fare sempre più nella mia vita è quella della santità, che sembra una cosa presuntuosa e strana. Quando dico che non intendo far carriera ecclesiastica ma diventare santo, molti sorridono e mi giudicano presuntuoso ed esagerato. In realtà cerco di prendere sul serio quanto il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium definiva la universale chiamata alla santità. È una sfida rivolta a tutti i credenti, una frontiera impegnativa. E adesso arriva il pezzo forte. Ovviamente non dobbiamo limitarci a pensare che santi siano soltanto quelli canonizzati dalla Chiesa e finiscono sugli altari. Santo non vuol dire nemmeno persona perfetta, infatti lui non potrebbe mai essere santo da questo punto di vista. Agostino e Paolo di Tarso hanno confidato molte delle loro malefatte. Girolamo era un collerico, Ignazio di Loyola un soldato spietato e così via. Ma colui o colei che onestamente si sforza di essere umano in maniera sincera ed integrale, di sviluppare una visione positiva del mondo e delle persone, di avere una disponibilità a rispettare ed aiutare gli altri, di scegliere e restare fedele a valori quali l'onestà, la giustizia, la veracità, la compassione e così via. Ecco, trovo che questo sia una precisazione importante, nulla di presuntuoso nel suo desiderio di santità, ma credo, vorrei che tu commentassi questo, il desiderio di essere coerente con una fede profonda che non è sterile ma che cerca di tradursi in atti, insomma. È quello che viene sempre rinfacciato ai preti, no? Da quando esistono. Ricordo una volta andai a bere un caffè a Iseo, prima di una conferenza, e il barista, guardandomi, fa: cos'è quella cruz che te porta? E dico: perché sono prete. Ah, bella roba, È millenni che state rovinando l'umanità, voi... Fermo, dico. 2000 anni, prima non c'eravamo. Allora sono fatto una risata, sono diventati amici, vanno sempre a bere il caffè lì e a volte me lo offre. Allora, la verità fa sempre bene. Due messaggini ricevuti. Uno da un giovane architetto di Merano, che dice, bello, ripeto a lui, come santo ti ci vedo proprio bene. E poi invece un'altra testimonianza che è ancora più insospettabile, perché poi vi dico da chi viene. Una signora di 40 anni dice, dopo la lettura non ho più nessun dubbio, per quello che può contare, per me lei è già un santo, e da ben prima della lettura del suo percorso. Infatti proprio guardando lei, il suo modo di essere, di agire, di porsi, di raffrontarsi e confrontarsi, sia con le persone che con le cose, che mi sta aiutando a tornare sulla strada, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo scrive una delle mie segretarie. E voi sapete che di solito la segretaria deve dire tutto il male possibile del superiore. La Trevisan era andata via, potete sfogarvi. No? Ma se lo scrive la segretaria qualcosa di veloce sarà. Cioè la frontiera, o diciamo la strada che dobbiamo tenere presente su tutte le frontiere, è quella dell'umanità. Essere un po' umani, no? Essere un po' capaci di capirsi, di aiutarsi, di ascoltarsi, così via. San Paolo scriveva le sue lettere dicendo ai santi che sono in Corinto, pace e benedizione dal Signore. Mica erano tutti con l'aureola per Corinto, no? Non è che girassero, dicevi, passa un po' il sidro che si è ossidata un attimino, dai una lustratina che non brilla più. No, santi vuol dire a quelli che si sforzano di essere coerenti, quelli che si sforzano di essere autentici, quelli che si sforzano di esserci per gli altri. Credetemi, ho detto una spruzzatina prima, anche lui a modo suo è un santo, no? Perché si prende cura del... Non sopportare metastasi, cancro, ma come si prende cura delle persone quando stanno male, eh? Come sa ascoltarli, seguirli, eccetera, eccetera. Non è normale, non tutti i medici sono così. Uno che si impegna ad essere quello che deve essere è sulla via della santità. Santità non è una roba stratosferica per quelli super. Tutti quelli che sono diventati santi prima sono stati persone davanti a cui uno diceva, oh, una persona umana, una persona per bene, una persona a modo, una persona di cui puoi fidare, una persona che è cordiale e così via. Quindi io non mi stanco di dire che ogni credente deve tendere alla santità, senza illudersi di esserlo già, senza circondarsi dell'aura misterica. Ci sono a volte quei santoni, io non li posso sopportare i santoni, no? Ci vorrebbe un niente, io vi assicuro, se avessi tempo e voglia di mettersi un po' di impegno, potrei, non so, aprire sul colle sopra Bolzano il santuario della verità. Potrei cominciare a spargere la voce che io ho le visioni, no? Che interpreto i sogni, ma che sarebbe la gente a frotte e offerte che mi fa una villa stratosferica con la piscina dentro, altro che il Conte Tunco. Mi farei una vita da super lusso, perché la gente a volte è credulona, si beve le cose, più sono grosse le balle e più se le beve. Diciamo, come fanno a bersi questa balla? No? Anche la politica ci insegna, più le spari grosse più ti credono. Però quella roba lì non è autentica, perché se tu non credi in Dio, puoi anche puntare a fregare il prossimo. Dici, sono una carogna, ma tanto so che con la morte finisce tutto, penso a godermela in questa vita che dopo non c'è più niente e vai. Se uno crede nell'oltre, crede nella vita eterna, crede nella totalità, crede nella comunione dei santi, dice no, un attimino, la morte è il bilancio globale finale, bisogna arrivarci con i conti a pareggio, se possibile in credito, non in rosso. Quindi la santità chiede di andare oltre certe meschinità e così via. Facevo vedere ai miei studenti la Claudiana giorni fa, uno di quelli di quelle mail che ci arrivano ogni tanto, le proporzioni del mondo, no? Si vede la Terra, gli altri pianeti, più piccoli e più grandi, la Luna, piccina, piccioli, vicino. Poi si cambia slide e c'è la Terra in confronto a pianeti molto più grandi, e lì piccolina, piccolina. Poi la Terra in confronto al Sole, scompare, non c'è più, no? E poi il Sole in confronto a Aldebaran, scompare anche il Sole, così via. E questo è solo uno delle galassie, uno dei sistemi. Dice, che cos'è la nostra Terra? Perché ci litighiamo e ci beghiamo per quattro sciocchezze? Santità vuol dire avere un po' di respiro ampio e non fermarsi alla meschinità delle piccole beghe. No? Quando parlava dei santoni, Don Renner, sulla santoni che spesso sono ciarlatani puri, alcuni sono in buona fede ma molti sono ciarlatani, sembrava che facesse la prefazione al mio libro sulle medicine alternative. dove veramente ci sono dei santoni che sulla buona fede della gente, sulla sofferenza della gente, costruisce miliardi e tesori inestimabili. Gli esempi inutili che vi parlo adesso, non voglio parlare di me, ma vi ricordo solo che mamma Ebbe, per esempio, è stata condannata, ha ucciso, eccetera, è uscita, ha rimesso su un'altra casa di cura, di nuovo diventata ricca, di nuovo condannata. Per cui questa esigenza di credere, bisogna che non la lasciamo sterile, ma facciamo credere in qualche cosa che vale, non una, perché se no dalla religione malintesa alla superstizione il passo è molto breve. Fra le tante Grenzen di Don Renner, una che mi piace, in cui insiste in vari punti del libro, è quella sempre tra forma e sostanza. A questo punto un esempio che mi ha colpito molto è un litigio che lui ha avuto con il vescovo e che secondo me vale la pena di leggere e di farvi brevissimo. Ricordo, dice, un piccolo scontro che ebbi molti anni fa con il vescovo Gargiter. È veramente importante perché secondo me questo succede spessissime volte. Ero ancora seminarista e avevo un appuntamento con lui per riferire circa gli studi ed il cammino verso il sacerdozio. Non so se ti ricordi questo pezzo che è a pagina 127. Prima sono passato però a trovare una signora gravemente depressa. Lui, fra l'altro, mi invia spesso dei pazienti per motivi compassionevoli. Mi mandasse uno che avesse un'ulcera. Mi manda delle robe mai viste che lui scarica, me le rifila a me e invece dovrebbe trattarle lui. E allora io ho deciso che qualche volta gli mando una colite ulcerosa e dico vada da Don Renner per restituirgli il piacere. Se non sei un luminare, scusa. Prima sono passato però a trovare una signora gravemente depressa che mi minacciava il suicidio. È toccante sta roba. Ho preferito restare con lei, trattenendola dall'uscire sul balcone al quinto piano, finché non è arrivato il marito. Non esistevano i telefoni cellulari a quel tempo, sono arrivato in ritardo dal vescovo che si è molto inquietato. Gli ho spiegato il motivo, ma è rimasto cupo e non accettava ragioni. Questo mi fa già incavolare, senza saper prima spiega. Poi Renner glielo spiega. Allora mi sono un po' irritato io, dice il seminarista, e gli ho ribadito che in certi casi una povera donna viene prima del vescovo. A quel punto ha sorriso e mi ha detto, va bene, mi racconti dei suoi studi a Roma. Quindi come la disubbidienza gerarchica anche veniva messa in secondo piano rispetto alla necessità di aiutare umanamente, cristianamente, una persona che magari era atea, no? Ti ricordi questo particolare citato? Ti ricordi? Va. L'ultimo scontro che ho avuto con un vescovo, che adesso è defunto anche lui, il nostro vescovo Wilhelm, era anche su una questione di forma e di sostanza. C'era problemi di finanziare un corso, il biennio di specializzazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose qui a Bolzano, perché sarebbe costato la bella cifra di 22.000 euro all'anno. E fino a metà marzo il discorso era, ma insomma non ci sono questi 22.000 euro, ma fate uno sforzo, troviamoli, così via. Quando poi in marzo si è annunciata la visita del Papa e si sono fatti i debiti stanziamenti, ho fatto notare al vescovo che per il Papa fargli passare 15 giorni piacevoli in Alto Adige si sarebbe speso come circa 70 anni di biennio. Quindi 15 giorni a confronto di 70 anni mi sembrava una cosa oscena. Però ma mi ha ancora tenuto testa, mi ha ancora disobbedito, ci ho messo del tempo, il 28 giugno mi ha approvato il biennio. Questa sera dovrò fare lezione alle 7:15 perché non abbiamo trovato tutti i professori, mi tocca fare un po' più di corsi, per quello che sono senza voce. Io le dico queste cose perché nessuno è perfetto. Qualcuno racconta le magagne mie, no? Allora io racconto quelle degli altri, no, ma noi siamo pari. È immediata la domanda, chi era più cristiano? Quello che vorrebbe far spendere questa cifra per altre cose o quello che era più cristiano, credo, il Don Renner in quell'occasione. Un discorso personale di Don Renner che riguarda tutti noi, perché in fin dei conti, per bravi che siano i medici, moriremo tutti, è il suo rapporto col concetto di morte, la frontiera vita-morte, che lui tratta a 136 dicendo una frasetta che vorrei che lui commentasse. Dice, dopo aver parlato su varie cose abbastanza intuitive, rimango comunque dell'idea, dice Don Paolo, che la morte la si dovrebbe poter guardare in faccia. Allora gli chiedo, cosa vuoi dire quando vorrai vedere la morte in faccia? Cosa significa esattamente questa frase? Ma intanto che sono convinto, dal contatto con tanti malati morenti, che fino a un certo punto possiamo deciderla noi. Ne parlavamo anche prima con degli amici, fino a un certo punto possiamo noi stabilire il momento, no? Non abbiamo un potere assoluto su questo, ma un piccolo margine di manovra ce l'abbiamo e dobbiamo usarlo. Poi io sono molto contrario alla mentalità vigente del potessi addormentarmi nel sonno e non accorgermi di niente. Questo è un furto. È un furto, essere privati della vita senza accorgersene. Da un colpo e via. È meglio poter fare un po' di patti, un po' di accordi. Io ho conosciuto, vi ho raccontato prima, del signor Alberto, che ha voluto preparare mesi e mesi la sua morte. È morto, diciamo così, in piedi. È morto da signore. È morto dicendo, un momento, me la insceno io la mia morte. C'è un libro di Sant'Alfonso Maria de Liguori intitolato L'apparecchio della buona morte. Non so se l'avete qui in biblioteca, un po' antico, del 700. La preparazione della buona morte. La buona morte va preparata. E io nel libro anche descrivo, vorrei potermi avere qualche ultimo giorno per preparare, no? Il terz'ultimo per fare gli ultimi scherzi e togliermi le ultime soddisfazioni, no? Il penultimo per regolare le ultime questioni rimaste pendenti, il terzo per entrare nel clima giusto e darmi un aspetto un po' presentabile per lassù, insomma, che magari mi direbbero datti una sistemata, insomma, mettili un po', no? E credo che sia bello poterla guardare in faccia la morte, anche se non è una realtà simpatica, però poter dire, ecco, la vedo arrivare, so che viene. Tante persone con cui ho parlato hanno dato delle indicazioni molto precise o hanno parlato ai loro cari, danno delle scadenze, danno dei momenti. Direi che è importante poter essere signori della propria morte. Non possiamo evitarla né rimandarla oltre un certo punto, ma possiamo arrivare preparati e io spero di arrivarci lucido. Vero? Beh, diciamo che, deformato dalla mia professione, in parte dissento, cioè non dissento, faccio il comma. Un conto è la buona morte, la fine della nostra esistenza in una vecchiaia, dopo una vita vissuta di gioie, di dolori, eccetera, poi a un certo punto invecchiamo e moriamo. Questa morte la vorrei vedere in faccia anch'io. Un conto è la morte che avviene non naturalmente, per una malattia gravemente invalidante, che rende impossibile qualsiasi tipo di piacere, neanche il piacere di vivere esiste. E sono assolutamente contrario all'eutanasia, che sia ben chiaro, quindi non sto parlando di questo. Dico solo che in questo caso qui l'idea proprio di desiderare di morire, di non vedere più nessuno, neanche la morte in faccia, io nella mia esperienza la vedo. Quindi il tuo discorso è assolutamente condivisibile in una morte fisiologica legata all'invecchiamento. Ma la malattia introduce una variabile qualche volta pazzesca, veramente inimmaginabile, che non si può neanche dire teoricamente, perché bisogna vedere cosa significa. Io qualche volta ho scritto, lo credo di aver mandato anche Don Paolo, nella rubrichetta che scrivo sul giornale, qualche volta certi soloni politici o religiosi o anche atei dissentono sul testamento, non hanno mai messo piede in una sala di rianimazione a vedere cosa significa. Di gente che sta 20 anni, ma non quelli del solito coma profondo, Welby, eccetera, a parte quello è un altro problema. Anche gente, vivere è una cosa spaventosa. Allora, è soprattutto una componente, che è il dolore. Perché guardate che il dolore profondo altera Don Renner stesso, con dolore profondo non potrebbe ragionare così. Non è in grado di ragionare così, perché il suo cervello è malato, non è un cervello sano. Quindi, torno a ripetere, sottoscrivo pienamente, la morte fisiologica va vista e come. E mi ricorda quello che ti ha fatto vedere il vino, che vi ha riuniti col tortel de patate, quella è una bella, pur essendo malato di cancro, ma non era travolto, bello, ha avuto ancora il piacere di Don Renner, il vino stappato, eccetera. Boh, vabbè. E poi i presenti possono trarre un sospiro di sollievo, le due categorie di persone che più temono la morte sono i medici e i preti. Non ho mai visto tanta gente spaventata come i medici e i preti davanti alla morte. No, io confesso che temo molto il dolore premortale, un dolore terribile, perché ho avuto testimonianze, vedete, io per fortuna ho i soliti acciacchi di tutti noi, la schiena, la galanca, i piedi, però sono di dolore. Ecco, vorrei non avere una morte preceduta da un tormento di questo tipo. Torniamo al libro e ad Orene, che cosa c'entro io, cosa mi fai parlare di me? Dimostra una grande tendenza a interessarsi dell'umano, del sociale, non lamentoso ma di fatto, però dimostra anche un grande senso di spiritualità, che lui affronta a pagina 38 nel capitolo che lui chiama Il giardino interiore, coltivando la spiritualità. La domanda che faccio a Don Paolo è questa: come fai a coltivare e a sintetizzare in modo equilibrato questa esigenza di di essere nel mondo, tra la gente, di vivere, di mangiare, di bere, la gioia che i beni della vita, che sono i beni del Signore, e anche una capacità di approfondire il tuo interiore. Questo sicuramente è un discorso che richiede un atteggiamento mentale, un'educazione progressiva. Anche un po' di disciplina. Di disciplina, certo. Ricordo un libro del padre Bonifacio Baroffio, intitolato La preghiera, fatica di ogni giorno. È una fatica, ma è una fatica che porta anche dei risultati, è una questione di ascesi, cioè di esercizio, di costanza, così. E ogni giorno è importante salvare i propri spazi di preghiera, saperseli ritagliare, tenerseli, perché se non si coltiva un attimo l'interiorità si è dispersi. Quindi tutto quello che è lettura, riflessione, anche meditazione, anche a volte una preghiera meditativa, così, che tante volte la faccio anche in macchina, in ore non pericolose. La sera no, mi ascolto la radio con musiche allegre a tutto volume, perché sennò mi addormento. Ma durante il giorno tante volte mi prego con rosarietto, così via, anche delle formule ripetitive che aiutano una concentrazione, interiorità. Chiaramente bisogna ritagliarsi lo spazio, farsi l'oasi, staccare i telefoni in certe ore. Qualcuno volta dice, ma è sempre occupato. Magari uno sta un attimino pregando, meditando, e l'unico sistema è di staccare il telefono, perché sennò con la politelefonicità della nostra società è un macello. Quindi bisogna ritagliarsi gli spazi, sfruttare agosto mi ritiro in Val di Non, è un mese di grande possibilità di interiorizzazione psicofisico-spirituale, e credo che tutti possiamo gustarci anche l'interiorità facendo piccole cose ma con intensità, anche giocare con i nipotini come ho fatto ieri con Jacopo e Nicolas. Qui c'è il mio quasi nipotino Daniel, che è ancora nella pancia della mia sorellina piccola Susanna e vorrebbe fuoriuscire verso Natale, vediamo cosa farà, insomma. Il penultimo era nato verso Pasqua, no? Adesso questo è verso Natale, si sono scelti i tempi santi. Anche giocare con i bambini è una cura dell'interiorità, perché ci porta a lasciar perdere quelle cose importanti che noi grandi abbiamo da fare, che in realtà ci stressano, ci alienano e ci fanno arrabbiare, e ci portano a occuparci delle poche cose essenziali, tipo giocare, gustare la vita, saper cogliere l'attimo e non farlo fuggire, rallegrarsi di cose piccole ma grandi, anziché cercare sempre cose grandi, più grandi, l'estremo, il no limite, eccetera. Quindi curare l'interiorità vuol dire anche gustare una buona lettura, i libri, ecco, sono una cosa importante, ma anche saper gustare le perle di saggezza che ci danno persone semplicissime. Ho citato nel libro un signore di Cortina, un anziano nel frattempo morto, che venne una volta a una conferenza, c'erano 150 persone in sala, lui arriva tardi, un vecchiotto vestito un po' goffo, con quei maglioni, un po' da contadino, scarponi da contadino, faccia da contadino, arriva dal fondo della sala, viene in prima fila, c'è sempre posti liberi, lui lo sa, sapevano. Si siede lì in prima fila, mi guarda un po', mi ascolta due minuti, poi comincia a frugare nel sacchetto di quelli di plastica rumorosi, perché sono quelli, remena dentro sto sacchetto, tira fuori un panetto, comincia a mangiare il suo panetto, mi ascolta, tira fuori una bottiglia, beve qualcosa, si è fatto la cena, mi ha ascoltato un po', poi si è addormentato, al dibattito si è risvegliato, e ha fatto il terzo intervento, no? Si è alzato, mi ha puntato il dito e fa: te ha detto bene, perché senza Dio, senza religione, il mondo non va avanti. E si è riseduto. Ha detto in una frase quello che ho detto in un'ora, no? L'ha detto con la sua... È un personaggio interessante che ha detto ai suoi compaesani di Cortina, capite? Cortina, la nobile, la perla delle Dolomiti, ha detto: qua sei diventato peggio degli atei, perché aveva lasciato cadere la processione alla chiesa di ospedale col crocifisso, no? Lui ha detto: io adesso a settembre vado su al crocifisso con la croce. Si è preso la croce e è andato su da solo, sono 8 chilometri, l'anno dopo erano in 50, l'anno dopo in 300, adesso hanno ripreso la processione. È una persona... Ci sono dei mostri di spiritualità sotto apparenze molto povere, no? Quindi dobbiamo saperli trovare. Tutti hanno qualcosa da insegnarci, dal bambino all'anziano, dal letterato all'illetterato, tutti hanno delle perle, sta a noi saperle trovare. Non dobbiamo dire: oddio che brutta ostrica, guardiamoci un po' dentro, sono tante brutte ostriche che hanno dentro delle perle bellissime. Credo che sia condivisibile di tutto, soprattutto mi pare anche quello che per migliorarci, insomma, quale che sia il nostro obiettivo finale, se non ci diamo il tempo di pensare, io credo che la vita moderna il pericolo maggiore è quello di non avere proprio il tempo di riflettere, perché se non pensiamo come possiamo cambiare in qualche modo? È impossibile. E pensare è sempre più difficile per tempo, eccetera. C'è un detto triestino fantastico che dice in dialetto: pensar fa mal de schiena, perché pensare qualche volta, oltre che la difficoltà di trovare il tempo, ci fa del male, perché però se non pensiamo ricommetteremo per l'ennesima volta i nostri errori. Due domande finali te le devo fare, perché nella problematica del libro, fra tante frontiere che tu citi, ci sono anche le frontiere etniche razziali. Giustamente la signora prima, Trevisa, citava di questi giorni qui, dopo 60 anni, 100 anni, 300 anni, quello che è, siamo sempre fermi allo stesso punto. Ci sono delle frange che queste frontiere non le vogliono, senza che questo significhi perdere in identità. Allora, un tuo commento, perché trapela anche dal tuo libro questo, che senso dare, come si può conciliare il mantenimento della propria identità, ma anche il rispetto e il cercare di integrarsi con identità altrui e in una sintesi di culture e di abitudini che possa essere, perché in fin di conti se ci fossero delle guerre spaziali e la Terra combattesse contro Marte, saremmo tutti terrestri, no? Ma bisogna proprio avere Marte contro per trovare questo tipo di omogeneità esistenziale, che già, come sapete, è stata espressa benissimo da Albert Einstein, quando ha dovuto andare negli Stati Uniti cacciato dai nazisti, perché lui era ebreo, e quando il guardiano in America le dice: lei di che nazionalità è? Lui ha risposto: razza umana. E sono passati 50 anni e abbiamo ancora le cose che abbiamo. 50 anni da poco, poi 500 anni. Ecco, vorrei, come vedi, quale possibilità c'è, cioè quale strada avere per superare questo tipo di dissidio? La propria identità, ma anche la curiosità, l'affetto e il desiderio di capire il prossimo, è colui che è diverso da noi. Ma sono tre ipotesi, tre piste. Una è guardare indietro. Avevo prima in trasmissione a Toto Metabul il dottor Karl Gruber, che è responsabile dell'arte sacra della diocesi, che diceva: sono profondamente contrario alla distruzione dei simboli fascisti, perché ci ricordano un'era, ci fanno pensare, e tutto quello che ci fa pensare ci aiuta a conservare la nostra identità. Quindi io, dice, da tirolese di cultura che conosce ogni sasso, ogni chiesetta, no? Dico: conserviamo queste cose, spieghiamole, portiamo i giovani a capire le tracce della memoria, le vie della memoria, così. Una seconda modalità è di guardarsi intorno e di magari non considerare il vicino italiano, tedesco, così via, no? Ma vederlo come vicino, come persona, come personaggio interessante, dialogarci, interagire. Si fanno delle scoperte interessantissime. E un terzo scenario è quello di guardare avanti. Fra un 150 anni saremo una colonia cinese. Che ci preoccupiamo? Parleremo tutti mandarino. È scientificamente dimostrato che le lingue parlate da meno di 100 milioni di abitanti, di 100 milioni di persone, si estingueranno, sono destinate a estinguersi. Tedesco, caput. Italiano, ma sei finito? Ladino, ne parliamo manco. Quindi la lingua più parlata al mondo attualmente è il cinese e il mandarino. E sarà la lingua del futuro quando saremo una colonia cinese? Perché cosa succede di solito? Quando si va a colonizzare, poi si viene colonizzati. Era successo con l'Inghilterra, con la Francia, con la Spagna, con l'Italia. Adesso lo fa anche l'Alto Adige: abbiamo colonizzato la Cina, Senfter, per non far nome, Tun e tanti altri. Fra 100 anni saremo colonia cinese. Preoccupiamoci di imparare il cinese. Invitiamo i nostri figli a imparare il cinese. C'erano le Marcelline 3 anni fa che mi hanno detto: sta reverendo una delle sue. Noi siamo molto avanti, abbiamo deciso di introdurre nel nostro istituto, non le solite lingue, ma abbiamo messo addirittura il russo. Ma dico: suora, è uno sforzo inutile. Perché? Dovete far imparare arabo alle ragazze per i prossimi 50 anni e poi il cinese, quello viene sempre comodo. Non mi ha capito, ma ha guardato esterrefatta come avesse visto il demonio, e quindi l'ho lasciato perdere. Eh beh, questo è grave, però insomma, anche perché è così, di fatto è così. Un ultimo commento, penultimo commento, me lo devi fare su una cosa che non può che sbigottire le persone di fede, questa grande rissa con sangue al Santo Sepolcro tra armeni e greco-ortodossi, che non è la prima volta che si ripete, in nome dello stesso Dio, nello stesso posto, nello stesso sepolcro sacro, e a separarli che sono stati le guardie ebraiche, le guardie di Israele, che hanno dovuto dividere i contendenti. Anche quelle palestinesi, perché lì no, credo che possono solo... No, lì è territorio palestinese. Vabbè, insomma, ecco. Ora, voi capite che quando parliamo di cose elevate, semplici ma elevate, come ha detto Don Renner, ci troviamo di fronte a questa roba qua, uno dice, ma siamo fuori dalla grazia di Dio, più che davanti al Santo Sepolcro. Un commento di Don Renner. Da 700 anni il Santo Sepolcro, la porta viene aperta e chiusa da una famiglia musulmana, perché i cristiani se le davano di sante ragioni, per cui ci hanno messo secoli per decidere come fare i capitelli dell'Anastasis, della zona absidale dove c'è il sepolcro di Gesù, il monumento che ricorda il sepolcro. E quando ho visto le immagini sono rimasto molto sbigottito e dispiaciuto. Ci sono questi equilibri delicati, no? E noi cerchiamo anche come Bolzano Bressanone di lavorare molto con gli ortodossi, i russi più che altro, anche qualche contatto con i greci c'è, perché si evolvano un pochettino. E l'unica cosa consolante, ho detto, in questa lite fra ortodossi e armeni, armeno i cattolici non c'entravano, armeno stavolta siamo innocenti. Sì, sì. Ecco. No, giusto che tu precisi. Ultima domanda, e riguarda, che c'è, di cui c'è tracce multiple nel libro, è in quanto la frontiera della nostra fede o della nostra moralità, anche al di là della fede, è la politica. Il rapporto tra fede e politica, il cristiano che ha le sue frontiere precise da un punto di vista religioso, come si propone, come si pone di fronte alla politica? Deve avere delle caratteristiche particolari o no? Perché l'esempio che tocchiamo con mano è piuttosto disastroso. Cos'è che manca? Manca un autentico spirito cristiano che è soltanto millantato ma non c'è, o è un'incapacità concettuale, intellettuale di riuscire a sintetizzare le due cose? Molto spesso ci si vanta di quello che non si ha, perché se uno ha una cosa non deve vantarsene, si vede. Non è che mi devo vantare di avere una crocetta, ce l'ho, la vedono tutti, no? Non devo vantarmi di avere il sole dei re macedoni, si vede, o di avere un bel vestito di lana leggero, morbido, comodo, grigio, comprato all'outlet a Mantova, una bella occasione, così. Non devo vantarmi, sono delle cose che si vedono. Uno di solito mette l'accento su quello che non ha. Allora, quando vediamo gruppi o partiti che devono mettere fuori slogan in nome del cristianesimo, simbolo della croce, così via, no? In nome della civiltà cristiana, no alle moschee. Veramente la civiltà cristiana ha un suo magistero che dice la Chiesa guarda con stima ai fedeli dell'Islam. Non siamo noi a dover ricostruire le moschee, ma nemmeno a impedire che vengano costruite. Un cristiano non può essere contro le persone che pregano. Anzi, le dovrà aiutare a distinguere al loro interno tra chi prega e chi frega. C'è chi prega e chi si finge religioso, perché guarda caso, tutto il mondo è paese. Bin Laden, nessun musulmano dice Bin Laden è un uomo religioso. Il musulmano intelligente dice Bin Laden è un politico furbo, è uno speculatore furbo che usa e abusa della religione per i suoi fini, che sono altri. E guarda caso abbiamo anche noi i nostri piccoli Bin Laden, di altro formato, molto meno dannosi dal punto di vista delle migliaia di morti, ma ci sono anche noi. Quindi diffidiamo da chi si dice cristiano e apprezziamo chi lo è senza magari dirlo, e troveremo molti, come le definiva il grande teologo Carrano, molti cristiani anonimi nel mondo, che non si mettono l'etichetta, ma che lo sono più di quelli che sbandierano continuamente: io sono cristiano, ehi, io sono cristiano, sono super cristiano, iper cristiano. È un vecchio proverbio spagnolo: diffida di chi ha trovato la verità e fidati di chi la sta cercando. Noi siamo cercatori della verità, e chi dice di averla in tasca o di possederla o di venderla a quarti e fettine non ha in mano la verità, ma un'immagine della verità, un simulacro della verità, ed è meglio scappare. Come diceva Jalaluddin Rumi, il grande mistico dell'Islam, di cui sono celebrati l'anno scorso 800 anni dalla nascita, diceva: ho visto Gesù fuggire e l'ho fermato. Gesù, tu l'operatore di miracoli, tu il profeta dell'Altissimo, tu la sapienza di Dio, tu il risuscitatore dei morti, tu il vincitore del demonio e del peccato, tu fuggi, ma da che cosa fuggi tu? Dice Gesù, tu dici bene, io ho compiuto miracoli, io ho scacciato i demoni, io ho camminato sulle acque, io ho ucciso il leone nel deserto, io risuscito i morti, però ho visto uno stupido e davanti a quello non posso far niente neanch'io, mi sono fuggito. Ringraziamo Giorgio Rodriga per la grande presentazione. Credo che Don Renner, se qualcuno della sala vuol chiedergli qualche cosa in merito al libro o qualche, perché siamo qui ancora qualche minuto, lo può fare. Qualche se, minuto, perché poi bisogna andare a cena. Se lui, a lavoro, se lui rifiuta, dimostra di essere un cattivo cristiano. Quindi se qualcuno. Vediamo fuori l'acqua santa. Come ho messo via l'acqua santa, ricomincia a fare il cattivo. Vabbè, qua in vista. Ecco, allora lasciate che dica io, sono molto felice invece di questa. Della presentazione di un libro che è squisitamente cristiano ed è un libro che può essere sottoscritto da laici, da religiosi, da tutti, purché si legga e purché si mediti, e per leggerlo bisogna comprarlo. Dai, buona serata a tutti, grazie della presenza. Guarda che ce l'avevano tutti, perché è uscito 5 mesi fa, diceva la persona presente poco prima di iniziare. L'ho letto 5 mesi fa il libro, mi sembra strano venire adesso alla presentazione, ma a volte anche a cose fatte hanno un'altra luce, no? Prende il filo. E penso che sarebbe fatto la presentazione. Sì, credo, Paolo, Don Paolo, sono in vendita quei libri. Ecco, la signora ne vorrebbe uno, anche la signora Dobrilla per la Dele. Anche la signora Dobrilla. Sono 14 euro, se non faccio credito. Per la Dele. Anche per la Dele. No. Noi sì. Bene. Quelle che non vogliono fare rumore, 15 con dediche, c'è un euro di dediche sotto linea. No, si sta facendo. Io già la quarta volta. Sì, faccia come vuole. C'è un problema qui. No, no, ma c'ho anche. Cioè anche le monetine. Che non era di comprare. No, già pagato, sì. Va bene così. Grazie. Sono qua. Alla prossima. Buonasera, signora. Buonasera. Sono Aloneso. Ben dopo. Meno bene. 14. Si proviene il cinese, devo dire. Ettore non c'è più il cursore. Io no, tu Elisa? No. Mi dispiace. Non è per spegnere, bisogna prima succedere. Ma non mi.